Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Buona giornata a tutti da Valentina Furlanetto e benvenuti a questa nuova puntata di Salvadanaio. Oggi parliamo di quella che viene comunemente definita la posta elettronica certificata. Ha debuttato qualche tempo fa, ha avuto un grande successo in rete. Nelle prime ore dopo il suo esordio, lo scorso 26 aprile, sono stati oltre 100.000 i contatti al portale dedicato e almeno 15.000 i cittadini che hanno completato la procedura di preregistrazione per l'attività della posta elettronica certificata. La novità servirà a semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione, questo è quanto si spera almeno, ma come ottenerla e quando utilizzarla? Ne parliamo oggi a Salvadanaio con alcuni ospiti. Se volete chiamare il numero è sempre 800 24 00 24 oppure per mandare un messaggio 349-238-6666. Prima di dedicarci a capire qualcosa di più nel nostro tema di oggi, un aggiornamento sui mercati e le notizie economico-finanziarie, aggiornamento doveroso visto gli precedenti successi delle borse lunedì, l'euforia, sapete, avete seguito con Deborah Rosciani la giornata intensa del lunedì subito dopo la nottata della Commissione Europea che ha sancito un piano di aiuti per l'euro e poi ieri avete visto che ci sono stati dei ribassi. Oggi la situazione sembra essere normalizzata. Francoforte guadagna l'1,14%, Parigi lo 0,39%, un po' più debole Londra, meno 0,15%, e poi per quanto riguarda Milano il FTSE MIB sale dello 0,06%, FTSE Italy Share in guadagno dello 0,08%. In particolare sul paniere dei titoli a maggiore capitalizzazione a Piazza Affari segnaliamo i rialzi davvero importanti del titolo Autogrill, più 5,36%, rompe al rialzo il titolo quota 9 euro e mette a segno un balzo quindi di quasi il 6%. Ieri il titolo era frenato dalla seduta volatile dei listini, sta oggi incorporando nella giornata di oggi appunto l'effetto dei risultati trimestrali annunciati ieri e la conferma dei target emersa nella conference call con i vertici del gruppo. Bene anche Mediolanum, più 2,59%, anche Mediaset più 2,57%, in questo caso dopo la trimestrale superiore alle attese, più 55% l'utile netto di Mediaset. Italcementi guadagna il 2,3%, Fondiaria Sai l'1,55%, bene anche Generali in rialzo di un punto percentuale, è in corso la riunione del Consiglio di Amministrazione di Generali sotto la presidenza di Cesare Geronzi. Il CDA della compagnia, oltre ad approvare i conti del primo trimestre, è chiamato ad esaminare il tema dei compensi ai vertici. Un punto di rialzo anche per Unicredit, spinta dai conti migliori delle previsioni e dal progetto di valorizzazione di Pioneer Investment. Per quanto riguarda invece le vendite sul listino di Milano, Fiat cede l'1,73%, in questo momento è la peggiore, seguita dall'automatica meno 1,56%, poi da Eni meno 1,19%, trascinata al ribasso in questo caso dal prezzo del greggio che continua a scendere intorno ai $76 a barile. Proprio guardando le materie prime, vi segnaliamo anche il nuovo massimo storico per le quotazioni del l'oro che ha toccato questa mattina i 1234,93 dollari l'oncia sui contratti con consegna immediata. Questo per quanto riguarda le notizie prettamente finanziarie. Sul lato macro invece c'è da segnalare il PIL italiano del primo trimestre, salito dello 0,5% sul trimestre precedente e dello 0,6% sull'anno, questo dice l'Istat, ma anche il PIL del Portogallo, sapete siamo molto attenti in questi giorni a come stanno andando le economie nei cosiddetti PIGS, tra cui anche il Portogallo. Il PIL del Portogallo ha registrato una crescita dell'1% nel primo trimestre 2010, dell'1,7% su base annuale, e il PIL della Grecia che ha registrato nel primo trimestre una contrazione dello 0,8 rispetto al trimestre precedente, del 2,3 su base annua e vedremo quindi la giornata. Per chiudere, euro sul dollaro sempre debole a 1,2672 in questo istante. Noi torniamo a parlare invece di certificazione elettronica. Lo dicevamo, c'è stato questo esordio il 26 di aprile con molte aspettative da parte dei cittadini e da parte anche della pubblica amministrazione. Per parlarne abbiamo con noi alcuni ospiti. Do il benvenuto a Giuseppe Latour, giornalista e collaboratore per il Sole 24 Ore. Buongiorno. Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. E poi a Maurizio Pirazzini, che è vice segretario generale della Camera di Commercio di Ferrara. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Questi ospiti, e poi se ne aggiungerà un altro che riesce a rimanere con noi per circa un quarto d'ora, un responsabile delle Poste Italiane, potranno parlare con voi se avete delle domande relative alla posta elettronica certificata all'800 24 0024, oppure se volete formularcele via sms al 349 238 6666. Adesso a voi ascoltatori e anche ai nostri ospiti facciamo sentire qualche dettaglio in più nella nostra scheda. Di questo passo, a breve, tutte le raccomandate con ricevuta di ritorno andranno in soffitta. Il debutto della PEC, la posta elettronica certificata, ha infatti avuto un grande successo in rete. Nelle prime ore dopo il suo esordio, lo scorso 26 aprile, sono stati oltre 100.000 i contatti al portale dedicato e almeno 15.000 i cittadini che hanno completato la procedura di preregistrazione per l'attivazione della PEC. La novità, che interessa circa 50 milioni di italiani, tutti maggiorenni in possesso di codice fiscale, servirà a semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione. Si tratta infatti di un sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. L'obiettivo della soluzione è quello di garantire certezza legale alla consegna dei messaggi. La posta elettronica certificata servirà ai professionisti per comunicare con la pubblica amministrazione, dagli enti previdenziali alle agenzie fiscali. Qualche esempio. I notai potranno utilizzare il nuovo canale per inoltrare gli atti di lascito al Registro Generale dei Testamenti. I commercialisti se ne serviranno per trasmettere i documenti per il deposito dei bilanci alle Camere di Commercio. Allora, vi dico subito che un ascoltatore molto attento, ma anche, se capisco bene, una persona che lavora per una società che gestisce posta elettronica certificata, ci segnala il fatto che erroneamente nei media, quindi anche noi, parliamo di PEC, quando in realtà il nome giusto, ma non è solo una questione lessicale, mi pare di capire, ma sostanziale, è Check PAC. Giuseppe, ce lo puoi spiegare un po' meglio? È così? La sigla Check PAC sta per comunicazione elettronica certificata tra la PA e il cittadino ed è lo strumento che è stato attivato il 26 aprile scorso per le comunicazioni tra cittadino e pubblica amministrazione. La PEC è uno strumento gestito da operatori privati, sono circa una ventina attualmente in Italia. Diciamo che grosso modo la differenza risiede nel fatto che il ministro della funzione pubblica ha deciso di non far interferire questi due strumenti per evitare che la casella gratuita fornita dalla pubblica amministrazione potesse andare a viziare in qualche modo il mercato delle caselle di posta elettronica private. Quindi sono due strumenti differenti che non interagiscono. Quella di cui parliamo noi, la Check PAC, è gratuita e serve soltanto per le comunicazioni tra cittadino e pubblica amministrazione. Quindi dobbiamo parlare proprio di Check PAC, non di PEC. Sì, se vogliamo essere precisi, ci dà eccesso di precisione, però insomma se vogliamo essere precisi sì, se dobbiamo parlare di Check PAC. Maurizio Pirazzini, allora anche a lei giro la domanda, cerchiamo quindi ovviamente di essere più precisi possibile. È uno strumento che viene erroneamente quindi chiamato PEC, ma che sarebbe la comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadino, è così? Sì, guardi, su questo settore va fatta un po' di chiarezza anche terminologica, perché se noi prendiamo la legge da cui deriva l'iniziativa del ministro Brunetta, si parla di posta elettronica certificata, è l'articolo 16 bis del decreto anticrisi del fine 2008, del 185/2008. Poi nel bando di concessione di questo servizio a soggetti terzi, quindi ha vinto un raggruppamento di imprese tra cui Poste e Telecom, ha assunto questa sigla CheckPack, ma poi per il grande pubblico è anche difficile poi districarsi da queste sigle. D-PAC però nel nostro sistema ne parliamo sin dal 2005, quindi sono 5 anni che dal DPR 68 del 2005 esiste la PAC. Fino ad oggi era uno strumento che era lì un po' in sordina e oggi conosce, diciamo, ampia notorietà grazie alla pregevole iniziativa del Ministro dell'Innovazione Tecnologica. Va fatta però chiarezza su chi può usare questi strumenti e a quale finalità. Innanzitutto la CheckPack, quindi questa ultima, è, come diceva il collega del Sole 24 Ore, una PEC chiusa che serve solo per il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, ma non è solo uno strumento di trasmissione, ma è anche uno strumento di sottoscrizione elettronica. Quindi questa CheckPack non è solo raccomandata online, ma consente anche di sottoscrivere tramite questo meccanismo delle istanze alla pubblica amministrazione. Lo scorso anno è cambiata una norma del codice dell'amministrazione digitale, l'articolo 65, alla lettera C, ed è stato aggiunto appunto questa precisazione. Quindi è un ibrido che funge da raccomandata elettronica, ma anche da strumento di sottoscrizione. Questo va precisato perché la PEC in generale si dice è uno strumento di trasmissione certificata, ma poi la paternità della firma va accertata tramite strumenti di firma elettronica, firma digitale. E quindi la CheckPack, diciamo, per la PA combina entrambi questi aspetti. La PEC ordinaria invece rimane solo uno strumento di trasmissione, per la firma occorre la firma digitale. Allora, grazie. Intanto abbiamo cercato di fare chiarezza sui termini, ma anche sui contenuti. Bentornati a Salvadanaio. Oggi stiamo parlando della CheckPack. Abbiamo cercato di fare chiarezza rispetto alla PEC. La CheckPack è una modalità di posta certificata elettronica gratuita per il cittadino che permette di comunicare esclusivamente con la pubblica amministrazione e non può essere utilizzata per comunicare tra aziende, professionisti o tra cittadini. Ci ha raggiunto al telefono Roberto Palumbo, responsabile marketing per la comunicazione digitale di Poste Italiane. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Ciao. Allora, come si può attivare questa CheckPack? Basta collegarsi al portale di Posta Certificata, che è www.postacertificata.gov.it. Lì i cittadini troveranno tutte le istruzioni, a mio avviso abbastanza semplici, per poter procedere alla registrazione dei propri dati che poi serviranno per creare la casella di Posta Certificata. Una volta ultimata la registrazione, si dovranno recare presso uno degli uffici postali abilitati, dove con un documento di identità valido, il proprio codice fiscale e l'ID, che sarebbe l'identificativo della registrazione del cliente che viene restituito automaticamente dal sistema, l'operatore allo sportello provvederà ad attivare la casella postale elettronica. Sembra un'operazione, e dovrebbe essere, e magari lo è, io non ho provato fisicamente a farlo, però il nostro Giuseppe Latour, giornalista, collaboratore per il Sole 24 Ore, invece ci ha provato. E così, Giuseppe, tu hai fatto una simulazione proprio. Sì, più che una simulazione, insomma, ho attivato un'attivazione vera e propria, però non ti sei... un'attivazione vera e propria. Ecco, non sì. Sei andato come giornalista, ma come utente. Sì, come utente. Come è andata? Possiamo dire che ci sono una serie di cose da considerare quando si svolge questa procedura. La prima è che non tutti quanti gli uffici di posta possono attivare la casella, quindi c'è un motore di ricerca nella pagina di attivazione nel quale poter verificare che l'ufficio postale vicino a casa può materialmente procedere all'attivazione della casella. Poi, insomma, a me è capitato, ma sono stato sfortunato di trovarmi in un ufficio nel quale l'impiegato che avrebbe dovuto attivarmi la casella non sapeva farlo, quindi ci ho messo un po' di tempo, la procedura è stata lunga, però insomma sono stato sfortunato io, perché poi in realtà si tratta di una cosa molto semplice, bisogna semplicemente incrociare i dati che sono stati inseriti inseriti sul via internet tramite il portale con i propri documenti mostrati fisicamente e dal vivo all'impiegato per verificare che non siano state fatte dichiarazioni erronee, insomma si firma il contratto di attivazione del CheckPack e la propria casella diventa attiva in tempo reale e si comincia a usarla come insomma io già sto facendo. Roberto Palumbo di Poste Italiane, lo ricordiamo, Poste Italiane mette a disposizione la sua piattaforma tecnologica per l'attivazione proprio di questa CheckPack. Quali sono i documenti che bisogna portare? Basta un documento di identità valido, una carta di identità piuttosto che la stessa patente di guida. L'unica cosa, ecco, l'avvertenza che posso fare agli ascoltatori che ci seguono in questo momento è di ricordarsi di portare anche il proprio codice fiscale. È obbligatorio anche la contemporanea presenza del codice fiscale, perché il codice fiscale poi ci consente quel codice unitario nei confronti del singolo cittadino, no? Per il riconoscimento unitario. Diamo anche... Sì, prego. Se mi consente, no, il collega Latore è stato molto chiaro, il collega giornalista suo Latore è stato molto chiaro. In effetti oggi però sono già attivi circa 6.200 uffici postali. Entro il 30 giugno allargheremo praticamente a tutti gli uffici postali presenti sul territorio, solo per far comprendere che qualche collega allo sportello può non aver ben chiare ancora quelle che sono le modalità di attivazione. Noi abbiamo attivato nell'arco di 20 giorni la formazione di oltre 12.000 colleghi di Poste Italiane allo sportello. Sì, infatti... I numeri sono rilevanti e importanti anche perché nel processo a scalare relativo alla formazione di questa procedura può darsi che qualcuno magari sia stato meno attento. Sì, ma infatti diceva Giuseppe, probabilmente è stato anche sfortunato lui. Allora, diamo la voce anche agli ascoltatori. 800 24 00 24, Carlo da Como, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Io sono sempre stato abbastanza attento alle novità elettroniche e ho attivato, appena avuto la possibilità, ho attivato la posta elettronica certificata, ho fatto tutto sul sito molto chiaro, ho portato tutte le carte all'ufficio postale abilitato e sono passati 15 giorni ma non è ancora stata attivata la casella. Carlo, lei mi quando dice che ci vuole ancora tempo. Quando lei dice posta elettronica certificata si riferisce alla CheckPack, per chiarire, sì, no? Quella sì, con la per sì, la comunicazione chiusa con la pubblica amministrazione, sì, questa. Sì, sì. Allora, il suo problema è che a 15 giorni di distanza non è ancora attiva. Maurizio Pirazzini, vice segretario generale della Camera di Commercio di Ferrara. È possibile? Ci sono dei tempi così lunghi? Ma dunque l'esperienza che ho avuto io, perché anch'io ho ritirato la casella, è stata di attivazione immediata, nel senso che quando l'operatore dello sportello postale diciamo così conferma l'operazione, la casella è immediatamente operativa nel giro di un minuto, ecco. Per cui evidentemente se dopo 15 giorni non è attiva c'è qualche problema di tipo tecnico. Qualcosa non ha funzionato. Claudio da Livorno, buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno. Volevo porre il seguente quesito, cioè volevo sapere, avere la conferma che il servizio, la CheckPack, in modalità diciamo unidirezionale tra il rapporto tra il cittadino e pubblica amministrazione e non anche viceversa, cioè di fatto che non sostituisse la raccomandata cartacea che io eventualmente dovessi ricevere dalla pubblica amministrazione. Grazie. Sì, Claudio, invece io penso che ci possa essere, che ci sia la reciprocità, Giuseppe. Sì, sì, assolutamente, assolutamente, può essere utilizzato per comunicazioni in entrambe le direzioni. L'obiettivo è proprio evitare raccomandate, un uso massiccio della carta e lunghe code. Sì. E tra l'altro potrà essere utilizzata anche per le comunicazioni interne alla pubblica amministrazione, questa è una cosa che interessa relativamente i cittadini, però sarà una semplificazione notevole proprio per i rapporti interni agli uffici della PA. Chiede Marco di Alessandria al 349-238-6666. Sono un insegnante, posso usare la CheckPack per comunicare con la mia scuola? Lo giriamo a Roberto Palumbo che può stare con noi brevemente, quindi abbiamo anche piacere a girare queste domande a lei. Assolutamente sì. Anzi, è un classico esempio, no? Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Un'informazione che può essere utile è quella che tra le varie pubbliche amministrazioni che già si stanno registrando per la casella di posta certificati. In effetti questo è il nome ufficiale scelto dal Ministero per il servizio che lei indica come CheckPack, posta certificata con LED diciamo finale. Moltissime di queste pubbliche amministrazioni sono proprio rappresentate da istituti scolastici. Quindi insegnanti, direttori di comprensori di scuole e cose di questo tipo, segretarie? Innanzitutto la casella di posta certificata proprio per la scuola, queste vengono chiamate caselle per registri di protocollo, in effetti rappresentano quelle che possono essere unità organizzative, no? Come per esempio un ufficio anagrafe all'interno di un comune. La scuola innanzitutto richiede un indirizzo di posta certificata che identifichi la scuola, poi altresì possibile per il preside assegnare delle caselle di posta certificata diciamo per i propri collaboratori, quindi insegnanti, personale di segreteria o altro. Ciascuna pubblica amministrazione peraltro può attivare anche più di una casella di posta certificata. Lei immagini praticamente i comuni di grandi dimensioni, piuttosto che, non dico i ministeri che sarebbe il caso eclatante, ma ASL, laddove praticamente non basterebbe un'unica casella di arrivo e partenza, ma vanno individuate anche per le modalità e le funzioni che svolgono all'interno della singola azienda pubblica, l'ufficio acquisti piuttosto che l'ufficio del personale, piuttosto che un ufficio amministrativo qualsiasi. Grazie, io ringrazio Roberto Palumbo, responsabile marketing per comunicazione digitale delle Poste Italiane, per essere stato in questa parte della trasmissione con noi. Intanto abbiamo al telefono Valerio da Salerno, buongiorno. Salve, senta, io ho un altro tipo di domanda, nel senso che ho già un conto presso BancoPosta e ho fatto la richiesta per la posta certificata. Devo comunque portare i documenti alla posta, pur essendo già un cliente certificato? Allora, credo proprio che Palumbo devo chiedere di rimanere altri 2 minuti, perché Valerio mi sembra che abbia una domanda proprio per lei. Sì, allora le dico che in questo momento il cittadino è, diciamo, è in qualche maniera obbligato a recarsi nuovamente all'ufficio postale, non fosse altro perché deve comunque dare il proprio assenso all'utilizzo, diciamo, e quindi a noi, ci autorizza a noi in qualità di concessionari ad attivare quella casella di posta certificata, ancorché noi, a ragione da questo punto di vista del cittadino, l'abbiamo già identificato come un cliente di Poste Italiane. Ahimè, questo prevede la legge e noi ci atteniamo alle istruzioni che ci dà il Ministero per questo servizio. Grazie, grazie ancora e la salutiamo quindi e grazie per essere stato con noi. Bentornati a Salvadanaio, abbiamo alcuni ospiti per parlare oggi della posta certificata gratuita con la quale comunicare esclusivamente con la pubblica amministrazione. Giuseppe Latour, stiamo parlando di quanto può essere pronta la pubblica amministrazione. Tu ovviamente che te ne occupi costantemente, che impressione hai? L'impressione è che qualcosa si stia muovendo, perché fino a qualche settimana fa, insomma, la situazione era abbastanza problematica. Diciamo che la fase precedente, l'attivazione della comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione, era stata quella di attivare la comunicazione tra professionisti e pubbliche amministrazioni, chiusa a fine novembre del 2009. Ora, questa fase era stata segnata da molti problemi, perché i professionisti in buona parte avevano attivato la casella di posta certificata, ma non hanno trovato negli ultimi mesi un corrispondente da parte delle pubbliche amministrazioni, che materialmente non hanno adempiuto al loro obbligo di attivare una casella di PEC. In buona parte la situazione a fine aprile era di un terzo. Giuseppe, ti sentiamo male, forse adesso cerchiamo di ripristinare la linea. Maurizio Pirazzini, anche la sua impressione è che velocemente si stia diffondendo? Ma senz'altro sì, questa è l'impressione. I cittadini hanno risposto bene, le pubbliche amministrazioni un po' più pachidermiche, diciamo così, stanno arrivando. È ovvio che questa è una legge che c'è dal 2005, come spesso accade purtroppo in Italia fino ad oggi questo obbligo dal lato delle pubbliche amministrazioni è rimasto nel cassetto. Se voi vedete molti siti di enti pubblici, ma anche di ministeri, ancora oggi non espongono la PEC, ma insomma le misure, diciamo, messe in campo dal ministro Brunetta, che incidono anche sulla responsabilità dirigenziale, sono tali per cui nel giro di qualche tempo sono sicuro che le pubbliche amministrazioni adempieranno. Molte magari ce l'hanno, ma poi non la pubblicizzano, perché il problema della PEC è anche conoscere, cioè dove vado, qual è l'elenco telefonico delle PEC, come faccio io a sapere se un'amministrazione ha una casella ufficiale di PEC, oppure un professionista, oppure una società. Quindi in questa fase serve anche molta comunicazione. E quindi è importante, c'è un sito che è l'indice pa.gov.it, poi c'è un altro sito messo in linea di recente dal Ministero dell'Innovazione Tecnologica, in cui i cittadini possono ricercare un'amministrazione. Se io voglio inoltrare una istanza per via telematica a un comune, che so, voglio iscrivere all'asilo mio figlio, posso farlo cercando la PEC del comune e utilizzando la PEC, diciamo Check PAC, ma PEC per capirci in modo più sintetico. Stessa cosa per le società. Per le società si guarda il registro imprese delle camere di commercio, tutte le società, quindi più di 1 milione di società, saranno obbligate ad avere la PEC entro il novembre 2011. Diamo spazio agli ascoltatori che sono in attesa e mi scuso e li ringrazio per appunto essere stati così pazienti. Lino dalla provincia di Padova, buongiorno. Sì, velocemente, buongiorno. Perché siamo in chiusura, dica. Sì, io ho seguito da anni questa PEC, ne una come attività, però è nata malissimo, è fatta da un ministro che non conosce un po' la struttura che abbiamo nelle famiglie. Perché non hanno fatto una PEC come fosse un codice fiscale per tutti gli italiani e ognuno se ne serviva e andava a confermare all'agenzia delle entrate dove ha tutto un sistema che si conoscono? Cioè dovevano semplificare questa attività della PEC a livello nazionale. Cioè lei non la trova semplice da attivare? No, io mi trovo attivare. Un sacco di password e altre cose da compilare, da scaricare in automatico, una cosa impressionante. Io che conosco è già un impegno, ma chi non lo sa fare diventa di impossibile. Va bene, grazie Lino. Grazie. Prendiamo anche un'altra telefonata, Giovanni dalla provincia di Imperia. Buongiorno anche buongiorno. A lei. Senta, io volevo solo una precisazione. Tempo fa l'INPS agli utenti dei suoi servizi ha dato la possibilità di attivare una casella di posta elettronica certificata. Volevo sapere adesso, per comunicare con la pubblica amministrazione, se è indispensabile usare o l'una o l'altra o diversamente, ecco. Quindi in un certo senso la sua critica è che ci sia un doppione, in realtà è una cosa che anche altri ascoltatori obiettano via SMS. Maurizio Pirazzini. Sì, allora, per quanto riguarda la complessità, come dicevo prima, la PEC va senz'altro assegnata alla persona fisica e associata al codice fiscale, proprio perché ha valore anche di firma elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi la firma, come la firma autografa la fa la persona fisica, nel mondo del web si utilizza o la firma digitale o in questo caso questa firma elettronica che è incorporata, diciamo, nel fatto di utilizzare la casella PEC. Tant'è vero che la persona viene riconosciuta allo sportello delle poste e quindi c'è una consegna diretta delle credenziali di accesso alla persona fisica. Diciamo così, non l'ho trovato particolarmente complesso il form del sito delle poste, vengono chiesti i dati personali, il codice fiscale, insomma si può consultare via web e bisogna gestire una user e una password, quindi ormai nel mondo di internet queste cose siamo abituati a usare le password. Sull'altro tema, PEC per l'INPS, sì. In effetti c'è questa iniziativa dell'INPS e dell'ACI per precisione che hanno anticipato, diciamo così, l'iniziativa poi della concessionaria delle poste e quindi hanno rilasciato queste caselle che dal punto di vista tecnico sono esattamente delle check pack. Dal punto di vista giuridico questa era una sperimentazione, quindi bisogna vedere se queste caselle poi hanno piena validità giuridica e questo è ancora, diciamo, un punto interrogativo. Prendiamo un altro, l'ultimo credo ascoltatore, Claudio da Trento, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono da Treviso, non da Trento. Ah, allora c'è stato un errore, dica. Non importa, volevo solo semplicemente chiarire una cosa che dovrebbe essere gratuita, mentre in realtà ci sono dei siti in cui si fanno pagare 24 euro per la registrazione. Prima cosa che non è conforme alle direttive governative. Quali siti? Secondo è lodevole l'iniziativa. Claudio, Claudio, scusi, quali siti? C'è un fastidioso ritorno, ma ci può dire quali siti velocemente? Guardi, io so che me li sono salvati a casa, in questo momento sono in auto, va bene. Magari comunque, di mandarvi. Grazie Claudio. Grazie Claudio, purtroppo siamo in chiusura. Abbiamo capito, lei dice che in alcuni siti chiedono 24 euro. Giuseppe Latour. Credo che il cittadino ascoltatore faccia confusione tra la CheckPack, la mail per la comunicazione con la pubblica amministrazione e le PEC private attivate da alcuni gestori come, come Aruba per esempio, che sono a pagamento, ma insomma sono assolutamente un'altra cosa, quelle possono essere utilizzate solo per le comunicazioni tra privati. Noi stiamo parlando della PEC gratuita cittadino pubblica amministrazione. Ecco, dai messaggi che ci arrivano, Giuseppe, prima di chiudere, in effetti alcuni trovano l'iter per registrarsi molto semplice, altri invece lamentano anche un ritardo di più giorni nell'attivazione. È possibile? È possibile, a me sembra strano, la mia esperienza personale è stata positiva in questo senso, però come all'ascoltatore di prima potremmo consigliare a tutte queste persone che stanno avendo problemi di chiamare i numeri verdi 800 104 464 da rete fissa e 199 135 191 da rete mobile. Io ho avuto un po' di problemi con il codice d'attivazione, l'ho fatto e mi hanno risposto e risolto tutti quanti i problemi in tempi rapidi, nonostante su questo lamentino delle attese lunghe, in effetti ci sono, però insomma riescono ad aiutare chi chiama, quindi credo che la soluzione per loro sia quella. Allora, ripetiamo i numeri verdi che tu hai già detto, 800 104 464 è il numero verde, da rete mobile invece 199 135 191 e poi il sito www.postacertificata.gov.it. Io ringrazio gli ospiti che sono stati oggi con noi, Giuseppe Latour, giornalista, collaboratore per il Sole 24 ore, Maurizio Pirazzini, vice segretario generale della Camera di Commercio di Ferrara. E per oggi è tutto, grazie anche in regia Carmelo Lauricella, in redazione di Salvadanaio Gaia Romani, Alessandro Longoni per Soldi e Dintorni. Da Valentina Furlanetto è tutto, ci risentiamo domani mattina, buona giornata. Salvadanaio.